Italia in controluce. Benvenuti Italia Controluce, l'approfondimento del nostro giornale radio in conduzione Daniele Biacchessi, anche noi come Gian Giacomo Schiavi che tra poco avremo in diretta, lo abbiamo chiamato lo sciopero incivile, uno sciopero generale dei trasporti a Milano che si stava trasformando in tragedia. Che cosa è accaduto? A Milano si sono verificati momenti di panico, di forte tensione che hanno fatto scattare l'allarme della metropolitana, poi alla ripresa dello stop alle 18 un convoglio è rimasto fermo bloccando l'arrivo di altri treni, impedendo ai passeggeri di questi di scendere. 8 persone rimaste bloccate per la ressa si sono sentite male. Io saluto il vice direttore del Corriere della Sera, Gian Giacomo Schiavi. Buongiorno, buongiorno. Allora, ascoltiamo insieme Maria Luisa Pezzali in diretta per la ricostruzione di quello che è accaduto. Sì, buongiorno Daniele, buongiorno agli ascoltatori. Partiamo innanzitutto dalle ultimissime, la notizia di poco fa, l'autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali nel definire del tutto inaccettabile in termini di civile convivenza quanto successo ieri ha avviato un'indagine conoscitiva. Quella di ieri è stata appunto una giornata difficile per lo sciopero del trasporto pubblico locale in molte città, ma a Milano il caos è diventato una vera e propria emergenza, una questione di ordine pubblico. Migliaia di persone appunto sono rimaste bloccate in una galleria della metropolitana per 40 minuti, ci sono stati malori e scene di panico, 8 persone alla fine sono state trasportate in ospedale. Sono scesi e non camminano verso la stazione. Di chi sono le responsabilità per quello che è successo? In Consiglio Comunale il PDL chiede di convocare una seduta straordinaria per sentire il presidente di ATM, la società che gestisce i trasporti milanesi, Bruno Rota. La Lega parla di situazione da terzo mondo, chiede la testa del presidente ATM. Noi ovviamente lo abbiamo cercato, la nostra richiesta di intervista però non è stata accolta. Ci è stata girata una nota dell'azienda dal titolo "A Milano i passeggeri bloccano la metropolitana". Abbiamo cercato anche l'assessore ai trasporti del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran. Stiamo ancora raccogliendo tutte le informazioni, ci è stato detto, aspettiamo le risposte di ATM. Il Codacons intanto parla di una situazione molto grave, preannuncia una class action contro la metropolitana milanese per chiedere i danni, chiede inoltre un rimborso immediato del biglietto a tutti coloro che dovessero farne richiesta. E voi che cosa ne pensate? Vi ricordo come sempre, come di consuetudine per questo programma, i messaggi SMS al 349-238-6666. Di chi sono le responsabilità? Il gruppo del PD, il consigliere comunale Roberto Biscardini, dice che le responsabilità vanno subito accertate. Quello che è successo sembrerebbe adesso in parte ricostruito, quello che è da accertare è le responsabilità, nel senso che non si capisce come mai se un cittadino, pur per sbaglio, lì non l'ha fatto certamente per sbaglio, ha azionato una leva per bloccare una porta, poi si blocca la porta per ore e ore e 30.000 persone, sono quasi una città intera, rimangono ferme in pochi chilometri della metropolitana sottoterra. Ecco, questo mi sembra il punto fondamentale. Non capisco come mai non si è potuto intervenire per correggere anche errori commessi dagli utenti, su questo non c'è dubbio, questo non è un incidente determinato da un guasto. Si è verificata una situazione particolare e nel panico probabilmente i singoli cittadini hanno peggiorato la situazione, però nonostante questo credo che bisogna accertare assolutamente le responsabilità. Si tratta di verificare appunto se nell'azienda si poteva fare di più per evitare che le persone rimanessero così tanto sotto la metropolitana. Al di là delle responsabilità poi che andranno accertate per capire che cosa ha fatto o non ha fatto ATM, con ATM da parte del Comune c'è una verifica periodica dei loro piani di aggiornamento, di intervento nelle situazioni di emergenza, eccetera? Cioè voi avete un controllo, una verifica sul loro operato? Ma dal punto di vista delle commissioni c'è relativamente, io non so dirle quant'è il livello, come dire, di continuo rapporto e costante rapporto fra l'ATM e l'amministrazione comunale. Non c'è dubbio che io ho la sensazione, come consigliere comunale, che spesse volte il comune sia una cosa e l'azienda sia un'altra. Io credo che occorra veramente molta maggiore collaborazione fra comune e ATM. Qua siamo di fronte a un servizio sociale che va governato. Al 349-238-6666 Roberto Manzoni dice che la colpa è solo del cretino che ha azionato il freno di emergenza e la responsabilità invece del sindacato. Un altro ascoltatore, vi ricordo, 349-238-6666. Anche tu, Gian Giacomo Schiavi, ti chiedi di chi sono le responsabilità, ma affermi che ci vuole un rispetto per i cittadini, la responsabilità dei sindacati, la necessità di tutelare tutti quei lavoratori sui quali si scarica lo sciopero dei trasporti pubblici, e ci sarebbe anche molto da fare per quanto riguarda le relazioni tra sindacati e governo. Perché? Ma io dico questo, che quello che è successo ieri è un intoppo che ha provocato un'isteria collettiva, è il segnale anche dell'esasperazione di tanti cittadini che non si sono fidati di quelle che erano le parole dell'ATM, scendete tutti dal treno perché ne arriva un altro. È un segnale preoccupante, un segnale grave, un segnale in cui anche Milano, anche la civile Milano ha perso la pazienza e ha perso la fiducia. Adesso ci saranno le audizioni, le giustificazioni, si diranno che ci sono stati errori appunto del cretino che ha azionato il freno a mano, diranno che non hanno eseguito gli ordini. Diciamo che tutti avranno una giustificazione. Il punto che è fondamentale è che resta da capire come si può difendere il diritto ad un giusto contratto da parte degli autoferrotranvieri senza mettere continuamente in difficoltà altri cittadini. Ecco, per esempio c'è un nostro ascoltatore che ha fatto il 349-238-6666, che Corrado da Como, che non è che poi abbia tutti i torti, dice che c'è una fortissima tensione nell'aria, che anche basta poco per esasperare gli animi, e lui spera, e naturalmente speriamo tutti, che questa esasperazione, che è dovuta a tanti fattori, non diventi di massa. Ha perfettamente ragione, sono d'accordo con questo radioascoltatore, serve una responsabilizzazione anche collettiva che parte dall'alto, quindi da chi governa e che dovrebbe risolvere i problemi contrattuali e non far passare 5 anni, ma anche dalla base dei cittadini e dai sindacati che hanno delle responsabilità anche loro. Ecco, un altro ascoltatore per esempio dice che nessuno spiega perché c'è uno sciopero, cioè non c'è una comunicazione. Ecco, ma chi la dovrebbe fare? Naturalmente il sindacato. Certo, la dovrebbe fare il sindacato, e comunque quello che il sindacato dovrebbe fare è cercare il dialogo con l'utenza, non continuare a dire più danno faccio e più lo sciopero è riuscito, perché in questo caso il danneggiato è un altro lavoratore esasperato e spesso che deve correre, che è disperato e che si trova a volte in situazioni in cui non può più giustificare come un tempo certi ritardi o certe assenze dal posto di lavoro. Milano è una città nevrotica, è una città che vive in metropolitana e che vive della metropolitana, e ultimamente sono cambiate anche le abitudini, c'è molta più gente che viaggia sui mezzi pubblici. Prima, ricorderai, in passato quando c'erano questi scioperi c'era il maxi ingorgo delle auto. Ieri sera invece no, c'è stato proprio il caos in metropolitana. Un tassista però giustamente dice: ma che colpa ha l'ATM se un imbecille tira il freno di emergenza? Queste sono naturalmente domande che ci facciamo, e si fa anche questo Sergio da Milano, che di professione fa il tassista, quindi uno che gira probabilmente per per Milano? Allora situazioni un po' magari mal gestite, aggravate dallo sciopero e dal caos sulle banchine, quindi dei passeggeri, sicuramente contribuiscono a rendere ancora più esplosivo il tutto, è evidente, però è chiaro che noi ci dobbiamo porre anche un po' come opinione pubblica il tema se queste forme anche di sciopero, cioè, sono arrivate a un punto limite e se non bisogna cercare di escogitare qualche cosa di nuovo, di più originale per ottenere un certo effetto anche dal punto di vista contrattuale, perché se sono passati 5 anni, se gli scioperi precedenti non hanno avuto effetto, vuol dire anche che c'è un problema, certo. Esatto. Grazie a Gian Giacomo Schiavi, che è vice direttore del Corriere della Sera, e grazie a Maria Luisa Pezzali, che ha lavorato con me alla realizzazione di questo programma, e grazie anche a voi che avete chiamato, vi siete anzi veramente in centinaia per quanto riguarda questa vicenda. Vi ricordo Facebook, la pagina del gruppo Italia in Controluce, Twitter stessa cosa, e poi la nostra mail controluce@radio24.it. A domani.